GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bambini malati, mamme e fratelli provenienti da Gaza sono stati accolti a Trieste. I piccoli saranno curati al Burlo per gravi ferite e gravi patologie. L'arrivo ieri sera con un volo dall'Egitto. Anziana aggredita nella periferia di Trieste verso le 6 del mattino. Senza apparente motivo un uomo ha sferrato un pugno all'ottantenne per poi fuggire lasciandola a terra. Ha un contenzioso con l'azienda di Sacile per la quale lavorava e ruba un dipinto negli uffici di cui aveva la chiave. Architetto di 30 anni denunciato per furto. Il quadro era a casa sua a Treviso. Code e rallentamenti sull'autostrada A4 per un tamponamento tra mezzi pesanti con feriti a 90 di Piave. Chiusi gli ingressi in direzione Trieste di San Donà e Cessalto. Dalle 8 di questa mattina negli uffici della Corte di Appello di Venezia la consegna delle liste dei candidati per le elezioni europee. C'è tempo fino alle 20 di domani per completare le operazioni. In consiglio scontro sugli anniversari. Passa lo stanziamento proposto da Fratelli d'Italia per i 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia, ma non quello del patto per l'autonomia per gli 80 della Repubblica Partigiana della Carnia. Bollette pagate, spazi per gli ambulatori e personale, queste e altre agevolazioni messe in campo da Sugi per trovare medici, ma nell'Isontino ne mancano 33. La storia di Simone e Giacomo, pastori per passione a Clauzetto. A poco più di 20 anni hanno lasciato le loro città, un lavoro da meccanico e uno da assicuratore, per cambiare vita. Comincerà l'11 maggio l'avventura della Triestina nei play-off promozione della Serie C. L'annuncio del consiglio direttivo della Lega è che ha parzialmente modificato il calendario della fase decisiva del campionato. Le 12:32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. 8 bambini di Gaza gravemente feriti o malati sono arrivati dunque ieri sera a Trieste per essere ricoverati al Burlo Garofalo. Ad andare a prenderli in Egitto il medico triestino, ex dipendente dell'istituto, Marino Andolina. Hanno dai 2 ai 16 anni i minorenni che sono arrivati con un volo umanitario la notte scorsa a Ronchi dei Legionari, il primo volo umanitario completamente privato che è riuscito a partire dall'Egitto, ci ha detto uno degli animatori di questa iniziativa, il dottor Mario Andolina, ex pediatra del Burlo Garofalo. Sono tutti qua questi bambini e queste bambine, sono persone che hanno ricevuto delle cure già nel proprio paese, sia a Gaza e sia in Egitto, e che adesso continueranno il percorso terapeutico in Italia. La situazione è anche difficile da raccontare perché abbiamo visto bambini senza braccia, senza gambe, qualcuno invece con patologie diverse non legate alla guerra e che comunque non potevano essere trattate in una situazione come quella di Gaza né in Egitto. C'è anche una sorpresa, diciamo, rispetto a questa operazione umanitaria, perché una delle madri che accompagnava una bambina che ha un problema per il collo ingrossato è incinta ed è incinta proprio nelle ultime settimane, aveva parzialmente rotto le acque nei giorni scorsi e proprio oggi dovrebbe partorire, perché così è stato deciso dall'equipe medica che ha trattato questo come un caso, diciamo, di urgenza, ma sta bene lei e sta bene anche la bambina nella sua pancia. Dunque gli 8 bambini che sono arrivati da Gaza, dalla Palestina, diventeranno presto 9 ed è questa la bella notizia di oggi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora una notizia dell'ultima ora. Diverse persone sarebbero state coinvolte da una probabile intossicazione da monossido di carbonio a Moron di Brugnera, in un appartamento in via Mazzini. 2 i casi più gravi, gli altri riportano sintomi lievi. I sanitari sono sul posto con 3 ambulanze. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco. C'è un aggiornamento rispetto a questa notizia. Secondo l'agenzia ANSA, una di queste persone è in gravi condizioni, una seconda invece ha sintomi meno acuti, ma comunque è grave. Le altre hanno accusato, come detto, solo problemi lievi. L'intervento e la bonifica dello stabile sono ancora in corso. E un'altra notizia di cronaca: un'anziana di circa 80 anni è stata aggredita e presa a pugni da un uomo questa mattina a Trieste. È accaduto intorno alle 6 all'incrocio tra via Flavia e via Benussi, in una zona periferica della città. Senza un apparente motivo, l'uomo avrebbe sferrato un pugno all'anziana per poi fuggire, lasciandola a terra con il viso tumefatto. La volante della polizia, allertata da un passante, è arrivata subito dopo e ha avviato le indagini che sono ancora in corso. I carabinieri di Sacile hanno denunciato in stato di libertà un architetto di circa 30 anni per aver rubato un quadro di proprietà della società Virtual Geo, specializzata in geomatica e comunicazione. Lo scorso dicembre la società aveva denunciato la scomparsa dall'ufficio del dipinto dell'artista indonesiano Arkiv Wilmansa dal titolo Acrylic on Canvas dal valore di 6.000 euro. Dalle prime indagini i carabinieri avevano notato l'assenza di segni di effrazione a porte e infissi e avevano dedotto che il ladro avesse una copia delle chiavi. È indagando in questa direzione che hanno individuato l'architetto, un ex collaboratore che aveva avuto diversi problemi durante il rapporto di lavoro e manteneva dei contenziosi aperti con la società. Il quadro è stato ritrovato durante la perquisizione condotta a casa sua in provincia di Treviso ed è stato restituito al proprietario. L'uomo è stato deferito alla procura di Pordenone per il reato di furto di beni culturali. Uscita obbligatoria in autostrada allo svincolo di San Donà di Piave per chi proviene da Venezia a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del comune di Noventa di Piave poco dopo le 10. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti e ci sono dei feriti. Il personale ha chiuso anche l'ingresso di San Donà in direzione Trieste per consentire le operazioni di soccorso. Resta chiuso in ingresso verso Trieste anche il casello di Cessalto a seguito dei 2 incidenti verificatisi a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro verso le 8 di questa mattina nel tratto tra Cessalto e San Stino e per i quali sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi e bonifica della sede stradale. Il traffico è molto intenso fin dal mattino sulla A4 in direzione Trieste. Rallentamenti sono ben segnalati dai pannelli a messaggio variabile e si sono formati fin dalle 7. Gli uffici della Corte di Appello di Venezia, sede dell'ufficio elettorale della circoscrizione nord-est, sono aperti dalle 8 di stamattina per ricevere le liste dei candidati dei partiti che parteciperanno alle prossime elezioni europee. Le formazioni politiche hanno tempo fino alle 20 di domani per completare le operazioni. Ogni lista può essere composta da un minimo di 3 candidati ed un massimo di 15, perché 15 sono in tutto i parlamentari che saranno eletti nella circoscrizione, che ricomprende, lo ricordiamo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Le liste devono essere corredate dalle firme di un numero di elettori tra i 15.000 e i 35.000. Sono esentati dalla raccolta firme i partiti già rappresentati nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È anche possibile evitare la raccolta firme accordandosi con i partiti presenti in Parlamento e inserendo il loro simbolo nel contrassegno di lista. L'Italia eleggerà in tutto 76 europarlamentari. Il Consiglio regionale dovrebbe concludere oggi la discussione sulla cosiddetta legge Omnibus, un testo di 142 articoli che è sostanzialmente una messa a punto di una grande quantità di provvedimenti già esistenti. Ad accendere il dibattito questa mattina un doppio emendamento presentato dal consigliere Giacomelli di Fratelli d'Italia che stanzia 70.000 euro a favore del Comune di Trieste e 50.000 da assegnare con un bando ad associazioni culturali per le celebrazioni dei 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia nel prossimo mese di ottobre. Un subemendamento con la firma di Morettuzzo del Patto per l'Autonomia chiedeva invece di prevedere un contributo anche per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica Partigiana della Carnia. Una proposta, quella di Morettuzzo, che il centrodestra ha interpretato come una sorta di contrappeso motivato da ragioni ideologiche e che quindi ha compattamente respinto, approvando il solo contributo per Trieste dopo un dibattito durato più di un'ora. L'approvazione della Omnibus è attesa nella seduta di questo pomeriggio. Nell'Isontino mancano 33 medici di base. Trovarli è difficile nonostante le diverse agevolazioni messe in campo dall'azienda sanitaria. Ambulatorio, arredi compresi, a canone zero. PC, stampante, linea internet a disposizione. Bollette pagate, incluse pulizie e smaltimento rifiuti e personale di segreteria a spese del sistema sanitario regionale. Per attrarre medici di medicina generale, l'azienda sanitaria Sugi di Trieste Gorizia ha messo in campo molte agevolazioni per chi sceglie di prendere gli incarichi provvisori in attesa che poi il posto diventi definitivo. Eppure, soprattutto nell'Isontino, difficilissimo trovare personale dove manca di fatto il 36% dei medici di famiglia necessari per assistere tutti i cittadini nel territorio, in un rapporto definito ottimale di un medico ogni 1.300 abitanti. Di fatto mancano 33 medici, il doppio della carenza che si registra invece nell'area giuliana. Nell'Isontino, spiega il direttore generale dell'azienda Poggiana, l'età anagrafica dei medici era più alta rispetto a Trieste, quindi improvvisamente molti medici sono andati in pensione, altri stanno per andare, e poi c'è un problema di attrattività del territorio. Evidentemente i medici preferiscono andare nelle città dove i servizi sono maggiori. La regione ha appena bandito 66 incarichi a tempo indeterminato per tutte le aree isontina e giuliana, ma se per i 29 posti di Trieste con buone probabilità i medici verranno trovati, non è così scontato che succederà per l'Isontino, dove infatti è stato necessario istituire gli ASAP, ambulatori con medici a rotazione spesso molto giovani, nati per essere strutture temporanee ma diventate strutturali per carenza di personale. Contro ASAP e mancanza di risposte sulla sanità territoriale, lo scorso marzo sono scesi in piazza Gorizia, cittadini, associazioni, politica. Sappiamo benissimo che gli ASAP non sono la risposta, ha ammesso il direttore Antonio Poggiana, ma per evitare che le persone intasino il pronto soccorso e dare una risposta di salute ai cittadini, siamo stati costretti ad attivare questi ambulatori che via via che troviamo i medici vengono poi chiusi. È successo per esempio a Farra di Sonzo, racconta, dove a febbraio l'ASAP è stato chiuso perché abbiamo trovato 4 medici che hanno coperto incarichi provvisori. Gorizia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo: il cielo nuvoloso in Carnia, sereno sul resto della regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 23,5 gradi, Pordenone 24,5, Udine 25, Gorizia 26,5, Sappada 13, Biancavallo 15,5, Forni di Sopra 17,5, Tarvisio 18,5, Tolmezzo 21,5, Monte Lussari 10, Monte Zoncolan 12, Grado 22, Lignano 23. E queste invece le previsioni per oggi: bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature pomeridiane quasi estive in pianura e sulla zona montana. Sulla costa di pomeriggio potrà entrare la brezza, che manterrà l'aria più fresca. Un migliaio di soci partecipano oggi alle 4 assemblee provinciali di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Coldiretti festeggia 80 anni in una serie di assemblee provinciali. Sala gremita al centro congressi di Udine Fiere, ma gli appuntamenti coinvolgono anche Isontino, Pordenonese e area giuliana e in generale tutte le 96 federazioni provinciali d'Italia. Dopo le recenti manifestazioni di Bruxelles e del Brennero, rilanciata la raccolta firme per la proposta di legge europea di iniziativa popolare a difesa delle produzioni italiane. Obiettivo 1 milione di firme. Prevede l'estensione dell'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari e lo stop all'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa. A livello regionale, segnalato qualche ritardo dovuto a motivi tecnici per l'OPR, l'organismo pagatore regionale degli aiuti europei all'agricoltura. Dal 1 gennaio eroga i fondi per l'azienda del Friuli Venezia Giulia, cosa che nel resto d'Italia è competenza dell'Agenzia Nazionale AGEA. Intoppi legati sia alla novità del sistema, anche se tutte le pratiche sono andate a buon fine, fa sapere l'assessorato regionale, sia dovuti a ritardi informatici a livello nazionale. Coldiretti chiede inoltre che venga superato o rimodulato il divieto di fertilizzazione in certi periodi, soprattutto invernali, della cosiddetta direttiva nitrati, perché con i cambiamenti climatici non c'è più lo stesso fermo vegetativo invernale. Come indicano Cesare Magalini, direttore di Coldiretti FVG, e Cristiano Melchior, presidente di Coldiretti Udine, la direttiva nitrati è nata inizio anni 90 dall'Unione Europea. Oggi abbiamo la possibilità di rivederla, perché il cambiamento climatico impone la necessità che questa direttiva sia più elastica nei confronti delle aziende. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La visione di un centro storico cittadino libero dal traffico e quindi maggiormente godibile, come immaginata dalla giunta De Toni, è apprezzata da Confesercenti. Quello che è invece da ritoccare è la modalità di attuazione della nuova ZTL, insieme alle tempistiche incongrue secondo l'organizzazione. Confesercenti chiede l'incremento dei parcheggi, un potenziamento del servizio di trasporto pubblico, preferibilmente con bus e navette elettriche che facciano da spola, con una buona frequenza tra parcheggi esistenti e il centro storico, e gratuiti nel primo periodo, almeno per 3 mesi. In concomitanza si richiede maggiore attenzione alle barriere architettoniche, abbattendo quelle che in centro sono di intralcio ai portatori di handicap e agli anziani. Abbiamo su per giù lo stesso numero di giorni di scuola degli altri paesi europei, eppure, tolta la Spagna, siamo gli unici ad avere 3 mesi di pausa dalle lezioni, retaggi di un paese agricolo con abitudini dure a cambiare. Anche per questo motivo rischia di fare flop in regione il piano estate voluto dal Ministero, che ha stanziato 400 milioni di fondi per le lezioni extracurricolari estive. Ci spiega perché Luca Gervasutti, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Le risorse sono sicuramente importanti, perché parliamo di un importo che varia dai 50 agli 80 mila euro a seconda del numero degli studenti di ogni istituzione scolastica. Quindi è un'opportunità sicuramente interessante sulla carta, ma poi quando questa proposta viene tradotta in realtà, si è evidenziato anche in passato che questo tipo di offerta formativa non funziona. Non funziona per diversi motivi, perché è comprensibile che durante l'estate i ragazzi abbiano il desiderio di trascorrere il loro tempo all'aria aperta. Secondariamente, le nostre scuole non sono attrezzate a offrire una proposta formativa durante l'estate, perché non ci sono impianti di climatizzazione, le strutture sono per lo più vecchie, abbiamo molte scuole che hanno degli spazi che assomigliano più a degli ospedali o delle caserme che a luoghi da frequentare durante l'estate. Diverso è il caso delle scuole del nord Europa. Se noi avessimo all'interno delle nostre istituzioni scolastiche delle piscine, degli spazi dove fare teatro, degli spazi dove praticare lo sport all'aria aperta, allora se ne potrebbe parlare. Ma si tratta veramente di una rivoluzione culturale per la quale non ci sono ancora i presupposti. Bisognerebbe poi far capire alle famiglie che la scuola non è solo un luogo in cui si fatica, ma è anche un luogo che può essere trasformato, non solo d'estate, auspicabilmente, in un luogo in cui si socializza, in cui si sperimenta la creatività, in cui si sviluppano delle competenze che tradizionalmente durante l'anno scolastico non vengono sviluppate, perché magari si dà la precedenza allo sviluppo di conoscenze. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Si conclude oggi all'Istituto Superiore dell'Edda di Trieste il progetto di formazione salvavita della Società Scientifica Nazionale di Infermieri d'Emergenza, che ha coinvolto anche studenti dell'Istituto Sandrinelli e ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Roiano, per un totale di 400 studenti. Sentiamo il delegato della Società per il Triveneto, Manuel Cleva. Abbiamo formato gli studenti su 3 principali fattori salvavita, ovvero la rianimazione cardiopolmonare, il blocco delle emorragie massive e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 3 situazioni laddove il soggetto colpito, se si trova in una situazione con delle persone che sanno mettere in pratica delle manovre salvavita, riusciamo ad aumentare la sopravvivenza in modo esponenziale della persona colpita. Proprio ieri nella provincia di Trieste si è verificato un episodio di arresto cardiaco in strada e a causa della diffidenza degli astanti non si sono iniziate in modo precoce le manovre rianimatorie. L'intervento precoce da parte dell'astante, ad esempio nel blocco delle emorragie massive, prima dell'arrivo del soccorso da parte dei professionisti del 118, riesce addirittura ad aumentare la sopravvivenza dell'80% del soggetto colpito. Idem vale nella situazione di arresto cardiaco: se qualcuno sa fare la manovra e inizia precocemente ad eseguire questa manovra, riusciamo addirittura nell'arresto cardiaco testimoniato a quadruplicare la sopravvivenza del soggetto. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora vi raccontiamo la storia di 2 giovani in controtendenza. Hanno lasciato Pasiano e Fiume Veneto, dove facevano il meccanico e l'assicuratore, e si sono trasferiti a Clauzetto per fare i pastori. A Clauzetto sono arrivati un anno fa, hanno scelto di lasciare la pianura per vivere e lavorare quassù il balcone del Friuli come pastori. Simone, Tamai e Giacomo Colombo, poco più che 20 anni, hanno oggi 300 tra pecore, capre e mucche. Gestiscono la malga a Montepala e la stalla comunale di Pradis. Con il latte dei loro animali producono caprini, pecorini, ricotte, provole e contribuiscono anche a mantenere pulito e in ordine il paese montano grazie al progetto di ecosfalcio nella zona della chiesa, dove li incontriamo. Giacomo, 22 anni, originario di Pasiano di Pordenone, pastore e casaro, un tempo meccanico, appassionato di biciclette. Che cosa ti ha portato qui? Che cosa ti fa restare qui? Beh, innanzitutto il paesaggio, il posto e il fatto che la montagna ti crea stimoli nuovi. La vita in montagna, indipendentemente da cosa tu faccia, ti fa svegliare alla mattina con idee diverse che se non in pianura. e in città, dove vuoi o no ci sono più comfort, è tutto più facile. In montagna ti tocca, insomma, imboccarti le maniche una volta di più, ecco. E cosa state facendo con i vostri prodotti? Adesso stiamo iniziando a venderli come passaparola, i primi. Adesso c'è qualche ristorante o qualche osteria che si sta interessando, insomma, alla nostra storia, al nostro percorso, e chissà, insomma, di inglobare più gente possibile che supporti il nostro progetto, insomma. Clauzetto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora lo sport. Comincerà l'11 maggio l'avventura della Triestina nei playoff promozione della Serie C. La notizia arriva dal consiglio direttivo della Lega, che ha parzialmente modificato il calendario della fase decisiva del campionato. Gli alabardati conosceranno solo il 7 maggio il nome della loro avversaria. In quella data, infatti, si disputa il primo turno dei play-off, nel quale si sfideranno le squadre che sono arrivate dal quinto al decimo posto della stagione regolare. La gara dell'11 maggio si disputerà allo stadio Rocco e la Triestina potrà giocare in casa anche la gara di andata per l'eventuale turno successivo, cioè martedì 14 maggio. Il 20 lo stadio Rocco dovrà essere messo a disposizione per la preparazione del concerto di Ultimo. Di conseguenza, se gli alabardati andranno avanti nel torneo, dovranno disputare le partite in casa lontano da Trieste. La sede più probabile sembra essere lo stadio di Legnano, ma rimane in piedi l'alternativa di Fontana Fredda. Il festival cinematografico intitolato a Sergio Amidei animerà il cuore di Gorizia dall'11 al 17 luglio, con proiezioni, appuntamenti ed eventi per tutti, dai cinefili appassionati agli spettatori più giovani insieme alle loro famiglie. Anche quest'anno il premio Amidei si fonderà col tessuto urbano, a partire dalla centralissima arena di Piazza Vittoria, oltre alle sale del Kinemax e della Mediateca Ugo Casiraghi, fino a via Rastello. La dimensione transfrontaliera, già tratto saliente delle edizioni passate, punta alla naturale valorizzazione del cinema di area slovena, accanto ai consueti approfondimenti di respiro nazionale e internazionale, mettendo a confronto gli autori e le istituzioni cinematografiche e facendo di Gorizia un luogo di scambio di idee e professionalità del mondo del cinema. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. In regia, per la parte tecnica, Riccardo Ostojic. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.